intreccio d'ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qua, guardate con quale indifferenza se ne viene. Belle fratello mio, va tutto bene? Don Giovannino mio, va tutto male? Come? Va tutto male? Vado in casa come me l'ordinaste con tutta quella gente. Bravo! A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a stare con voi. Cerco di intrattenerli. Bravo! Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarli dal pensiero la gelosia. Bravo, incoscienza mia! Faccio che bevano, e gli uomini e le donne son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per in sul più bello chi credete che capiti? Zerlina. Bravo! E con lei chi venne? Donna Elvira. Bravo, benisse di voi! Tutto quel mal che in bocca le venia. Bravo, incoscienza mia! E tu cosa facesti? A qui! Ed ella? Segui a gridar! E tu? Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiave, io di là mi cavai e su la via soletta la lasciai. Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio, incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte.